fa il modello, la parola che interpretava bene quello che stava avvenendo, l'individualismo era la società liquida, dove cioè non c'è più solidità. L'ultima metafora di un filosofo contemporaneo, si chiama Sloterdijk, peggiora la situazione. Saremmo nella società della schiuma, che è ancora meno consistente della liquidità. La schiuma è ciò che appare, ma che lascia pochissime tracce, e tracce che sono più di disturbo che di costruzione. Ma come si affronta? Penso che il riferimento evangelico sia il terzo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove si dice che Dio ha talmente amato il mondo da mandare il suo figlio. Nel Vangelo di Giovanni la parola mondo non rappresenta semplicemente la terra, ma rappresenta la terra degenerata, la terra oggi ridotta a schiuma. Bisogna quindi innanzitutto amare questo nostro tempo, amarlo appassionatamente, come Gesù ha fatto nella sua epoca, no? Che non possiamo dire che fosse migliore della nostra. E se siamo un po' attenti alla storia, se la conosciamo anche soltanto a grandi linee, non possiamo dire che nella storia ci siano stati dei tempi felici, ci sono sempre stati dei tempi burrascosi, no? E la Bibbia ne dà un'interpretazione, no? Che San Paolo esprime in termini drammatici, ma che è sempre davanti ai nostri occhi, cioè c'è una condizione di malvagità che è costantemente all'opera e contro la quale bisogna lottare. E questa lotta, come dicevano i profeti ai tempi del Concilio, questa lotta va fatta con amore, cioè bisogna amare intensamente questo nostro tempo e bisogna lottare perché ciò che cioè l'opera della malvagità che si manifesta nel razzismo, nella guerra, nella non accettazione dell'altro, nell'ingiustizia, nel utilizzare gli umani come mezzo, non come fine, ecco, tutto questo che c'è sempre stato nella storia, bisogna contrastarlo, no? Questo mistero dell'iniquità, lo chiama San Paolo, è in azione. Certo, adesso i mezzi tecnologici di distruzione sono molto molto più potenti e dunque l'azione e la passione per questo mondo deve essere proporzionata alla capacità distruttiva che c'è nel mondo di oggi. Quindi il primo modo per sconfiggere il clericalismo è amare questo nostro tempo, perché il clericalismo non ama il nostro tempo, vorrebbe un altro tempo, idealizza un tempo del passato che non ha nulla da essere invidiato e tende a lasciare il presente al suo destino. Ma il credente non potrà mai fare questa opera, dovrà sempre immergersi nella storia e operare perché la salvezza, non quella nostra ma quella divina, si realizzi. Ma questa salvezza divina, che è un dono, si realizza attraverso di noi, attraverso questa passione del tempo. Sì, questo porta subito all'altro versante, no, del discorso, che di fronte appunto al dominio di un individualismo molto sviluppato, no? Di una forma quasi di narcisismo, e dall'altro lato è presente una fortissima nostalgia per la comunità raccolta, piccola e bella, ecco. E quindi è qui naturalmente la nostalgia per l'identità chiuse, no? Non aperte verso il futuro di Dio, eccetera. Ma... E quindi è anche la questione del tradizionalismo, del successo straordinario che in ambito liturgico, ma anche più in generale in ambito spirituale, hanno oggi all'interno della Chiesa quelle correnti o quelle sensibilità che guardano naturalmente anzitutto verso il passato, no? La messa di San Pio V, e vediamo, no, che soprattutto nel vecchio mondo, negli Stati Uniti, anche in Europa, eccetera, il tradizionalismo, come ci diceva qua tra l'altro il nostro ospite qualche mese fa, riempie anche i monasteri, riempie i seminari, eccetera. E volevo chiedere questo appunto, non è che questo corrisponde poi in fondo a quel motto, no, che veniva citato nel libro, secondo cui viviamo in un'epoca in cui dobbiamo lasciare perdere gli altri e pensare anzitutto a noi stessi, come diceva qualcuno. Effettivamente questo pensare a noi stessi, da un punto di vista di termini che ha introdotto Freud, si chiama narcisismo, no? Che è l'espressione, giunto al suo stato schiumoso, dell'individualismo. Ma tutta l'intenzione del mio libro non è tanto di descrivere quello che sta avvenendo, che è sotto gli occhi di tutti. Effettivamente un po' di descrizione c'è bisogno, ho dedicato la prima parte. Perché? Perché quando una cosa è talmente evidente perché ci sei dentro, non te ne accorgi neanche più. E quindi un po' bisogna descriverlo. Ma poi se ci fermassimo alla descrizione, noi non porteremmo nulla di nuovo, mentre se denunciamo qualche cosa, e qui la denuncia molto esplicita, molto incoraggiata da Papa Francesco, è contro il clericalismo, no? Allora, questa denuncia deve innanzitutto, per stare alla tua domanda, focalizzare un punto da discutere e da contrastare. Questo punto è la concezione del sacro che sta alla base di tutti questi rigurgiti del passato, no? Che sono nostalgie non di una storia, ma sono nostalgie di un'emozione che è legata al sacro. Ora Gesù, pur essendo venuto e avendo esplicitato, anzi è morto per questo, cioè per rinnovare una religione, per rinnovare il modo con cui ci si rapporta a Dio, no? Gesù era molto, ma molto critico sul sacro. Al sacro ha costantemente contrapposto il santo. Che diversità c'è tra il sacro e il santo? Prendendo le immagini e le parole da Gesù, no? Il sacro ha questa caratteristica che separa, la parola sacro letteralmente significa separato, no? Quando nella Bibbia, se qui ci fosse il professor Giorgi lo spiegherebbe molto molto bene, si dice che Dio è tre volte santo, in realtà la parola ebraica sarebbe è tre volte sacro, è tre volte separato, altra cosa, no? Quindi il sacro è ciò che ti separa, noi contro loro, noi che non siamo come loro. Pensiamo alla parabola del fariseo e del pubblicano, no? Ecco, quello è il sacro. Il fariseo cavalca quell'idea di sacro. Noi versus loro, noi che non siamo come loro, noi che non siamo come il mondo, no? E nello stesso tempo paradossalmente include, separa e include, unisce, cioè chi non è con noi è contro di noi. Ora Gesù, in tutte e due le forme, dice esattamente il contrario, no? Dice che il discepolo si immerge nella pasta come il lievito. E il santo consiste dunque non nel separarsi, ma nell'immergersi. E nello stesso tempo, anziché includere, nel senso di fuori di noi non c'è salvezza, unisce al mondo. Perché? Perché i discepoli sono formati e mandati nella folla. E la folla non necessariamente riconosce Gesù. La folla grida anche crocifiggilo. Però la missione è lì. Gesù non ha mai abbandonato la folla. Anche quando la folla lo tradiva e si allontanava, la ruvida dolcezza di Gesù diceva ai discepoli: volete andarvene anche voi? Perché Gesù ha mai fatto proselitismo, no? E una cosa stranissima del Vangelo, no? È questa stranezza tra virgolette, perché noi abituati al marketing non consideriamo assolutamente una cosa di questo genere. I grandi incontri che Gesù fa con le donne, tante donne e gli uomini, no? Dalla samaritana a Zaccheo, quando incontrano Gesù, la loro vita si trasforma, cambia. Ma il Vangelo non dice assolutamente, non lo esclude, ma non lo dice, che la samaritana, Zaccheo, la donna con perdite di sangue, eccetera, eccetera, dopo aver incontrato Gesù, siano entrati nel gruppo dei discepoli. Può essere, può non essere. Per il Vangelo è irrilevante. Quindi il proselitismo, abbiamo bisogno di contarci, abbiamo bisogno di essere tanti, è del tutto estraneo al Vangelo. Perché il Vangelo non separa noi, voi, no? Perché la vera distinzione è sul peccato, e il peccato attraversa tutti noi, no? La tentazione del clericalismo è quello di cavalcare il sacro proprio in queste cose, no? Ed è averne anche una gratificazione, magari pochi ma buoni. Ecco, pochi ma buoni è il rovesciamento del Vangelo. Nel Vangelo bisogna essere tanti, la folla, no? E siamo tutti peccatori, non siamo buoni e non dobbiamo presumere di essere i pochi verso gli altri che sono invece alla rovina. Ovviamente tutto questo è strettamente collegato al primo punto di amare appassionatamente il mondo come l'ha amato Dio. Ed è un amore verso il mondo che non lascia assolutamente le cose come sono, ma le trasforma. Non le trasforma nell'ottica del sacro, ma nell'ottica del santo. Secondo Gesù, questa è la sua battuta più originale e anche più rivoluzionaria, che noi non siamo stati ancora capaci di tradurla adeguatamente, è che il sacro non è in grado di riconoscere Dio. Perché Giovanni capitolo 16 il mondo sacro dell'ebraismo del suo tempo ha pensato di dare gloria a Dio uccidendo Gesù. È così. E quindi il sacro non sa riconoscere il divino, perché è una espressione tutta ed esclusivamente umana. Con ogni probabilità noi non possiamo fare a meno del sacro, ma il sacro non è in grado di riconoscere Dio. Noi umanamente quasi certamente non riusciamo a fare a meno del sacro, ma il sacro non serve nulla per entrare nell'ottica evangelica. Sono tante le cose umane che non servono nulla per il Vangelo. Farsi tanti soldi non serve a nulla per il Vangelo, eppure è profondamente umano, cioè profondamente diffuso. Qualcosa del genere vale per il sacro. Oggi si dice che siamo in una società desacralizzata, che non ha più il senso del sacro. Le mie lunghe ricerche che ho fatto per tantissimi anni nelle discoteche piemontesi dimostra, almeno nei miei testi, dimostra il contrario. L'industria del divertimento cavalca molto il sacro, perché quel sacro che le nuove generazioni non trovano più, causa anche nostra, nelle nostre liturgie, quel sacro viene trovato, commercializzato in altre forme. Dunque il problema è il santo, non è il sacro. Da questo punto di vista la distanza dal clericalismo, no, è totale, non ci può essere alcun punto di collegamento, di possibile dialogo col clericalismo. Giustamente si è parlato di questa triade, no, che nel libro ritorna spesso: Gesù, il maestro, la folla e i discepoli, no? Nel rapporto tra questi tre soggetti, no, si gioca un po' il Vangelo. È interessante, no, forse soffermarci un attimo sulla fenomenologia della folla. Chi c'è oggi nella folla, no? Io cito alcune categorie, una particolarmente interessante è la categoria dei cercatori, di coloro che sono in ricerca, no? Spesso anche qui nei nostri ambienti ci troviamo di fronte a persone adulte, certo, cinquantenni, come posso essere io o altri, ma che vanno alla ricerca di qualcosa, che non trovano evidentemente spesso nelle parrocchie, certo, o in altri luoghi, no? Magari lo vanno a cercare in altre forme di spiritualità. E certamente però c'è questo ricco mondo a cui la Chiesa spesso sembra, non, la Chiesa istituzionale almeno sembra quasi indifferente, sembra non rendersene quasi conto, ecco, della loro presenza e del contributo straordinario che potrebbero dare. Ecco. Seconda categoria su cui, non so se posso darti del tu, su certo, cui ti soffermi, che è un'altra categoria molto interessante sociologicamente, quella dei deboli praticanti, no? Viviamo in un contesto in cui giustamente si mette sempre l'enfasi sull'autenticità della dimensione religiosa, della partecipazione alla vita ecclesiale, per cui chi non è al top, diciamo, in una società della prestazione finisce per sentirsi messo da parte, margine. No, come fare non solo a intercettare questi deboli praticanti, ma far sì che si sentano coinvolti e diano quello che possono e quello che si sentono di dare, no, all'umanizzazione di questo nostro mondo. Ecco, la terza categoria è sicuramente quella degli esclusi, no? Ma mi pare che tu dica non concentriamoci solo e tanto e soltanto sulla figura del povero inteso nel senso tradizionale del termine, no? Cioè colui che non ha di che vivere o ha bisogno di essere assistito dalla Caritas, eccetera, ma appunto su chi vive situazioni di fragilità. E oggi le situazioni di fragilità con cui noi facciamo i conti sono soprattutto situazioni di fragilità emotiva, psicologica, pensiamo agli adolescenti, eccetera, anche agli adulti. E quindi la domanda è giustamente, no? A un certo punto poi nel libro giustamente esce fuori questo concetto di una chiesa, o meglio, diciamo di una parrocchia, di una chiesa particolare che deve farsi casa, no? e deve rifondarsi in termini policentrici, no? Sviluppando una serie di percorsi, no? Che vadano incontro a questi diversi soggetti. Ma mi interessava capire appunto come fare per uscire dal recinto, appunto, quali sono questi soggetti che si possono e si debbono incontrare, no? E proprio in questo spirito, no? di far fermentare la pasta, ecco, con il lievito. Certo. Ecco, se si è coerenti a questa passione verso il mondo, se si esclude radicalmente l'inganno dei pochi ma buoni, allora si diventa più sensibili verso tutti. Tanto nessuno può dire sono perfetto, e dunque non puoi neanche condannare nessuno, come dice Gesù: non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, eccetera. Dunque bisogna avere passione per la folla. Tutto il Vangelo è centrato su questo. Man mano che riflettevo su questa cosa evidentissima, perché ogni capitolo parla della folla dei discepoli, no? Mi chiedevo come è potuto capitare che poi, andando avanti nella storia, di lì dopo pochissimo tempo, pochi secoli, si è dimenticato questa metodologia di Gesù. Cioè, si è pensato che folla e discepoli sono la stessa cosa. Per cui il modello Gesù, folla, discepoli, si riduceva a due: Gesù e i discepoli, no? Cioè veniva persa la concezione missionaria della Chiesa, che non significa andare in giro a fare proseliti, l'ho già detto chiaramente prima, ma significa sentire che tu diventi discepolo nella misura in cui sparisci nella folla. Sparire nella folla non vuol dire che dimentichi la grazia dell'essere discepolo, cioè dimentichi il tuo battesimo, ma capisci che il senso del tuo battesimo è metterti al servizio del regno, e il regno è la folla, sono le persone amate tutte indistintamente dal Padre. Questo è tutto il messaggio di Gesù. Solo che oggi la folla è diventata qualcosa di ancora più misterioso. Perché? Perché noi stessi, che pure riconosciamo di avere avuto il dono di essere discepoli, ci sentiamo folla. In che senso? Sentiamo che nel mondo complesso di oggi siamo tutti trattati come folla. Tutto potrebbe essere diverso da quello che è, ma noi abbiamo sempre di più l'impressione di poter fare molto poco, che la nostra azione conta pochissimo, che tutto è in mano a qualcosa che ci sorpassa, no? E che sembra del tutto ingovernabile. C'è una folla anonima, c'è un anonimato della folla che ci prende. Quindi questa metodologia di Gesù è particolarmente preziosa, e dobbiamo riscoprirla. Se dimentichiamo la folla, cadiamo immediatamente nell'inganno del clericalismo, pochi ma buoni, eccetera. Ecco, in questa folla, no, che dobbiamo amare, ci sono tutti i segni del regno, D'altra parte, se si è discepoli mandati e formati nella folla, è in vista del regno. Venga il tuo regno. E il regno non è ciò che fa la Chiesa. La Chiesa semmai è al servizio del regno. Il regno è ciò che fa lo Spirito nel mondo attraverso chi segue la parola di Cristo. E qui nella folla troviamo qualche cosa di molto, ma molto difficile da definire, che pure però qua e là, come dicevi, appare molto chiaramente, no? E tu l'hai definito il popolo, la folla dei cercatori, no? Questa cosa è talmente nuova, è talmente indefinibile, che negli ultimi, forse non più di 5-6 anni, la sociologia, nelle sue inchieste, per capire, almeno in Italia, il fenomeno dell'abbandono della messa, che interroga tanto anche la sociologia, com'è possibile che la maggioranza degli italiani continui a dirsi cristiana e solo una piccola minoranza vada in chiesa? E la maggioranza dei cristiani italiani sarebbero cattolici non praticanti, che è una religione nuova, perché nel Vangelo non è prevista questo tipo di religione, no? E allora la sociologia, vedendo dei segni dei cercatori, ma indipendenti dalla pratica pastorale, ha dovuto inventare una parola sociologica nuova, no? E l'ha chiamata la spiritualità. Spiritualità qui non è intesa nel senso cristiano, opera dello Spirito Santo, è intesa nel senso di cercare qualche cosa che non sta nella definizione precisa di pastorale. Questo è un popolo, no? Al quale essere attenti, tenendo presente che questa spiritualità è necessariamente ambigua, no? Perché può lasciarsi ingannare dal sacro, oppure può sentire il bisogno di qualcuno che ti accompagni e ti porti verso il santo. Ma se non ci sono i discepoli, chi può fare questa cosa? E poi c'è il popolo che tu chiamavi dei deboli praticanti. E qui potremmo dire il popolo di quelli che si ritengono religiosi, cioè per i quali la religione, anche la religione cristiana, è un riferimento, ma non è ancora un riferimento pieno. Sono tutti quelli che magari non vanno a messa, ma amano tanto, poniamo, passare in chiesa, o amano tantissimo i pellegrinaggi, i centri spirituali, i luoghi dello spirito, no? E se non vanno tutte le domeniche a messa, però alcune festività, alcuni momenti li vivono intensamente, no? E anche questo popolo ha bisogno di essere ascoltato, trattato bene, anche quando va in parrocchia e accompagna i figli per la catechesi, non può sentirsi subito rimproverato appena è entrato in chiesa, in parrocchia: ma tu non vieni mai a messa. Va bene, non viene mai a messa, però sente il bisogno, magari confuso, e potrebbe anche essere contraddittorio in un certo senso, ma è comunque un tratto della sua vita. Sente comunque il bisogno che i suoi figli frequentino la catechesi e ricevano i sacramenti. Sarà espressione di religione civile? Probabilmente sì, ma la religione civile contiene ancora qualcosa di religioso, finché esiste sicuramente sì. In Italia la religione civile ha ancora un alto richiamo. Religione civile intendo che tu frequenti la Chiesa, cioè tu riempi la Chiesa, ma solo qualche volta. Per cui noi ci troviamo in un paradosso sempre più stridente e sempre più, dal mio punto di vista, drammatico. Abbiamo le chiese vuote, o meglio, che si svuotano di domenica, e abbiamo le chiese troppo piene, e quindi ti chiedi se sia proprio popolo credente cristiano in certe occasioni, no? Certi matrimoni, certe sepolture riempiono e strariempiono la chiesa, no? Di persone che non ci vanno quasi mai, no? Le prime comunioni, le cresime, riempiono ogni angolo della chiesa. Quindi abbiamo chiese vuote e chiese troppo piene insieme, magari nella stessa giornata, no? Dove alla messa domenicale c'è un piccolo gruppo, ma se c'è quel matrimonio o se c'è la prima comunione sono strapiene, no? E questo è difficile da interpretare, però bisogna anche lì avere i metodi giusti, e il Vangelo ce li indica, per accompagnare anche queste persone. Cosa vuol dire praticare la religione in questo senso? Vuol dire trovare nella religione una espressione emozionale ritenuta di grande valore. Quando tu vivi qualcosa di umanamente intenso, la morte di una persona cara, la nascita di un bambino, questi, o il matrimonio stesso, il fidanzamento, eccetera, questi eventi contengono anche oggi, in una società detta scristianizzata o secolarizzata, un grande richiamo. Cioè, le idee della cultura di oggi non sono in grado di dare parola a ciò che le persone vivono in certi momenti. La religione invece sì, dà parola a tutto questo, parola, dà espressione, dà le emozioni per tutto questo. Tanti nostri battesimi, non oso dire la maggioranza, ma a me sembra di constatare così, più che immersione nella morte e risurrezione di Gesù, sono delle benedizioni che i genitori vogliono per i loro figli. Vivono un mistero, no? E ritengono che non sia sufficiente andare al ristorante. Ci andranno anche, certo, ma ritengono che ci vuole qualcosa d'altro, perché se bastasse il ristorante non verrebbero in chiesa, perché non ci vengono mai alla domenica, o quasi mai. Perché venirci nel battesimo? È perché c'è bisogno di una benedizione, c'è bisogno di qualcosa che vada nella direzione del mistero. Il mistero non coincide esattamente col sacro, perché il mistero è anche la base della fede, no? La fede è una fede di mistero. Il livello della fede è un livello invece un po' più impegnativo, no? È il tipico livello del discepolo, ma il discepolo che è riconoscente per il dono inestimabile della salvezza ricevuto nel battesimo, non si estranea dalla folla, si immerge nella folla. Il cristianesimo del futuro sarà così, altrimenti sparisce, ovviamente. Prima di dare la parola poi a voi, nel senso che sarebbe bene anche se magari qualcuno ha letto il libro, qualcuno no, e qualcuno è interessato a fare delle domande a Don Domenico così liberamente. E sulla questione, ecco, per quanto riguarda il clero, no? Venendo poi, perché il libro è sul clericalismo, però giustamente Nel libro si evidenzia il fatto che c'è un clericalismo dei ministri, ma c'è anche un clericalismo dei laici, e questo è molto curioso, è per certi aspetti quasi paradossale, no? E com'è possibile pensare a una chiesa nella quale entrambe queste forme di clericalismo vengano in qualche modo superate, no? Una chiesa ministerializzata ma non escludente, eccetera. E volevo anche chiedere a questo proposito quali sono i tratti che dovrebbero caratterizzare un presbitero non clericale. Nel libro ci sono alcune cose molto belle, l'omelia clericale e quella invece che non lo è. Ma al di là di questo, c'è una parola a un certo punto che mi ha colpito, che riguarda anche la questione del rapporto, di un rapporto risolto con l'amore, ma anche con l'eros, con la sessualità, la parola amabilità. Ecco. Che cosa significa questo termine e come possiamo immaginarci anche i presbiteri del futuro, ma anche come possiamo immaginarci i laici, uomini e donne, che vivono all'interno di una chiesa che si è lasciata alle spalle il paradigma clericale. Ecco, questa è la parte più importante del testo, sul quale io ho investito di più. La prima parte è un continuo descrivere la differenza tra un'omelia clericale e un'omelia missionaria, tra una messa clericale e una messa missionaria, tra una parrocchia clericale e una parrocchia missionaria, in modo che siano evidenti le differenze e siano sotto gli occhi. Ci siamo dentro, ma non necessariamente ce ne accorgiamo. E poi si tratta di capire come fare questo. Allora indico una serie di esempi, alcuni eventualmente possiamo poi ancora, se c'è tempo, discutere un po' insieme, no? Che sono: uno, la parrocchia deve collaborare ed essere costantemente presente nelle dinamiche del territorio. Alcune cose di natura strettamente religiose le fa in chiesa, tante altre cose le deve fare in pubblico, con l'ente pubblico, col comune, con l'ASL, eccetera, senza timore di perdere la propria identità, perché l'identità è data dallo stile con cui le persone fanno le cose, non dalle etichette. Basare sulle etichette è proprio l'espressione del clericalismo. Basarla sull'autenticità del tuo stile, ecco, e invece è una testimonianza. Questa cosa Papa Francesco la chiama chiesa in uscita. Ma il clericalismo contrasta totalmente questa idea, non la sopporta proprio, no? La chiesa non ha bisogno di uscire, semmai ha bisogno di far entrare dentro, ma non di uscire. Chiesa in uscita vuol dire che il luogo della tua missione non è la chiesa, è il mondo, è il tuo posto di lavoro, la scuola che frequenti, sono gli ambienti, sono i grandi temi sociali o culturali, no? Che non significa solo parlare di povertà, anche se la povertà nel mio libro la descrivo come qualcosa di assolutamente indispensabile, la scelta dei poveri, perché è la base del Vangelo, quindi non si può trascurare questo, ma non è solo questa cosa qui. E quindi la parrocchia deve rendersi responsabile, fare in città, di creare dei dibattiti, combinandoli bene, in modo da non creare contrapposizioni, avere il favore del popolo, che è pluralista politicamente, culturalmente, no. Però ci sono alcuni temi che bisogna trattare, no? È uno dei temi che io ho trattato di più a Quirino, tutti mi avevano sconsigliato di fare questa cosa, visto che poi Rino è un paese molto tradizionale, no? Tutta la questione dell'omosessualità, del gender, eccetera, io ho creato due grosse assemblee in un ambito pubblico con l'amministrazione comunale, eccetera, e se tu, almeno così mi è sembrato, ecco, presenti le cose nel modo meno ideologico possibile, più oggettivo, più pratico possibile, la gente è disposta a discutere anche di queste cose che sono presentate dalla società come argomenti divisivi, perché i problemi sono tutti reali, e quando tu ti confronti con problemi reali e non li interpreti ideologicamente, creando contrapposizione, allora bisogna trovare delle risposte. Per esempio, in un oratorio, se arrivano tanti bambini e bambine, problemi di genere, di bambine che vorrebbero essere bambini o viceversa, ci sono. Sono una piccola minoranza, ma ci sono. E ci sono dei problemi pratici. Per esempio, nella mia parrocchia, cioè nel campo, nei campi di formazione che facciamo, no? C'era il problema di un ragazzo che si crede donna e che vuole essere donna, no? Dove lo metto a dormire nelle camerate? Nelle camerate dei maschi o nelle camerate delle femmine? Stando alle risposte normali, non va bene da nessuna parte, quindi è escluso? C'è una risposta a tutto questo? Bisogna cercarla insieme. È un problema, è reale, non è un problema ideologico. Quella persona è così e non ce n'è una sola, ce n'è più di una. E dietro a questa persona ci sono delle famiglie che non sanno neanche loro cosa fare. Ma allora li emarginiamo, li etichettiamo, gli mettiamo dei titoli, sei omosessuale, no? Oppure hai una disforia di genere? Si trattano così i problemi, etichettando? No, però discutendone insieme. No. Ecco, e la parrocchia, dal mio punto di vista, parrocchia non clericale, deve creare degli spazi pubblici dove si discutano le cose. No. Io ho individuato uno dei temi più importanti, tutto il tema dell'affettività, della sessualità, e quindi sempre a livello di città, ormai è 2 anni che con certo seguito, sempre con l'amministrazione comunale, quindi i luoghi pubblici non ideologizzati, facciamo la festa di San Valentino degli adulti, no? Perché? Perché se c'è una cosa che, sulla quale la Chiesa è stata molto criticata, sul quale il clericalismo ha tuttora dei grossi guai, è proprio la sessualità, no? Grossi guai perché sono capitate dei fatti che conoscete bene, e poi perché molte persone si sono staccate dalla pratica e dall'adesione al cristianesimo per un modo inadeguato, a loro giudizio, con cui la Chiesa tratta la sessualità, no? Cosa che invece la Bibbia fa in altri termini. E allora questi temi vanno di nuovo portati in pubblico, no? Non serve parlarne solo a messa, serve parlarne in città. Ecco, tutto questo, in un mio capitoletto, io l'ho chiamato inculturazione. La parrocchia non clericale accetta l'incorporazione, accetta di confrontarsi con le grandi sfide. Ecco perché apparentemente tratto di temi così distanti, dalla sessualità a tutto il tema dell'ecologia. D'altra parte, se a Poirino, dove ci sono le stalle più automatizzate del Piemonte, se uno viene a Poirino in una delle stalle, è tutta robotizzata, ad altissima tecnologia, penso che trattori così mastodontici come quelli delle campagne di Poirino è difficile trovarle, perché l'agricoltura, che è molto rilevante perché il territorio di Poirino è molto molto esteso, è uno dei comuni più estesi della provincia di Torino, è evidente che la parrocchia non può non trattare i temi dell'ecologia. Magari ad alcuni agricoltori non farà molto piacere che si dicono certe cose, che cioè la pianura padana e dunque Poirino è una delle terre più inquinate, no? E che il modo dissennato con cui si concima, si distribuiscono antiparassitari costantemente, inquinando, eccetera. Però se la parrocchia non si interessa di questo, no? Dopo tutti i messaggi di Papa Francesco, dopo le encicliche, eccetera, come potrebbe? E allora bisogna parlare di queste cose in un modo non divisivo, cioè non ideologico, ma bisogna trattarla e bisogna entrare nella cultura complessa, perché gli agricoltori devono pur vivere, e non è una bella stagione quella che stanno vivendo, però ci sono dei problemi che riguardano tutti, che riguardano la vita sociale, politica. Da qualche parte bisogna che si discuta, no? Certo, la parrocchia non si limita a fare questo, perché fa un sacco di altre cose, fa la catechesi, fa il funerale, fa tutti i sacramenti, eccetera, ma non rinuncia ad essere anche un luogo dove si fa cultura, perché essa stessa accetta l'inculturazione. Bene, io direi adesso di lasciare spazio alle domande, alle curiosità vostre, ecco, a partire da quanto si è detto, ma anche evidentemente da quanto non si è detto, cioè di quanto di ciò di cui non si è ancora parlato. Ecco. Prego, c'è qualcuno che ha domande da porre, curiosità, Don Domenico? Tu hai parlato, Sergio, hai accennato una delle quattro caratteristiche che dovrebbe avere un presbitero non clericale. Domenico parli di semplicità, devozione, gentilezza e amabilità. Questa è una prima domanda. Anche a me sono piaciute molto queste quattro caratteristiche del presbitero non clericale. Poi vorrei chiederti, Domenico, di dire ancora qualcosa sulla parrocchia non clericale laddove si tratta di liturgia. Tu scrivi: nella parrocchia non clericale la liturgia è caratterizzata da nobile semplicità, libera da tutti i fronzoli, basata su un linguaggio accessibile e capace di accordarsi con l'uditorio. L'accusa che oggi i giovani e meno giovani fanno delle celebrazioni liturgiche è quella di essere semplicemente noiosa. Non sono percepite le celebrazioni liturgiche come esperienze vitali e riti di speranza. Ritengo che sia drammaticamente vero, talmente vero che bisogna ribellarsi a tutto questo. E qui quelle quattro caratteristiche vogliono dire semplicemente questa cosa. Semplicità vuol dire che tu non devi essere, come prete, differenziato dalla gente, che non devi considerare l'abito né quello clericale né quello liturgico come qualche cosa che ricordi anche soltanto vagamente lo sfarzo della nobiltà, no? Della corte, no? C'è un certo modo di identificarsi nell'abito che ti fa pensare diverso, no? Come una specie di cortigiano. Nulla a che vedere questo con l'onore a Dio, questo è puro narcisismo, culto dell'immagine del tuo io. La semplicità è questa cosa, però, come hai detto tu, va tutto ciò che è riferito a Dio deve essere semplice, ma deve essere anche nobile. Quindi tutto ciò che è volgare, che è qualcosa di che non porta la traccia della bellezza e del valore, non è adatto alla nobile semplicità. Poi hai parlato della devozione. Io ho utilizzato ovviamente questo termine nel senso etimologico della parola, che significa tutto l'opposto del devozionismo, che è la degenerazione della devozione. La devozione è quello che tu esprimi nel tuo volto, nella tua mimica facciale, nel tuo tono di voce, nel portamento della tua persona, e fa capire che tu ci tieni a quello che stai facendo. E quello che stai facendo, cioè nel caso del prete, spendere la vita per il Vangelo, è assolutamente bello. Evangelo significa appunto così. E quindi tutto ciò che riguarda la fede deve produrre ebbrezza. È vero che il Concilio aggiunge un aggettivo, sobria ebbrezza, perché per motivi storici la liturgia non ha imparato dai riti dionisiaci pagani e quindi non gradisce di per sé le esagerazioni, no? È conseguente del culto ebraico di una volta, che era molto rigido, essenziale, no? Ma deve essere comunque, deve produrre comunque ebbrezza, che è l'opposto della noia. Se produce noia, non è liturgia cristiana, non raggiunge quel livello. Va bene dire che deve essere sobria, ma non va per niente bene dire che deve essere noiosa. Sobria e noioso non coincidono. La noia è la mancanza di ebbrezza, no? E altrimenti perché Gesù avrebbe scelto il vino? Non l'ha scelto perché è rosso e quindi ricorda il sangue, perché il vino in Palestina non era assolutamente rosso, è solo il Barolo che è rosso. Quei vini lì sono tutti bianchi, quindi non c'entra niente col colore del sangue. Se ha scelto il vino è per l'ebbrezza, no? Ovviamente è l'ebbrezza non dell'ubriaco, no? Ma non è neanche la mancanza di tono di chi è depresso o annoiato. È segno di vitalità, di socialità, no? E quindi la devozione, come ho cercato di interpretarla, no? È questa ebbrezza che deve trasparire dalla liturgia, no? E non deve trasparire dall'immaginario, cioè dai paludamenti, dal pregio o dall'effetto puramente emozionale della musica o del canto. È una cosa più complessa. Ma Dio merita il massimo della cura, e quindi della cura anche estetica. E poi ho messo la gentilezza, perché la cosa più assurda è andare in parrocchia e sentirsi trattare male. E i preti possono anche trattare male, ma quando un prete tratta male una persona, contraddice totalmente la sua missione. Questa persona magari sbaglierà anche, magari avrà pure ragione il prete a dirgli che non è coerente, che viene per il battesimo ma non viene mai a messa. Ma non può mancare di gentilezza, perché quella persona che incontra dovrà trasmettere una carica umana e religiosa, no? Quindi la gentilezza è una virtù fondamentale. Così come è fondamentale l'amabilità. Qui è molto molto delicata la questione, perché io ho introdotto l'amabilità dopo un capitolo abbastanza complesso, un po' più lungo degli altri, sulla sessualità del presbitero. la quale attualmente è regolata da un criterio che è storico, no? Perché bisogna comunque conoscere le cose. Per 1200 anni, quindi fino al concilio che c'è stato nel 1200, i preti, i presbiteri, i parroci, erano sia sposati e sia non sposati. Da allora, ma in scuola di teologia ce la fanno studiare, c'è stata questa delibera del concilio e la motivazione, che sembra banale ma poi vi spiego che era molto intelligente, era: perché mettiamo questa regola? Perché dobbiamo mettere un freno all'eccessivo numero di presbiteri, troppe persone che vogliono diventare preti. Perché? Perché in quel tempo, 1200, diventare prete di una parrocchia voleva dire avere qualcosa di sostentamento, no? Ok? E poi perché, per motivi storici molto complessi, in realtà tutti i secoli precedenti, 1200, quindi 12 secoli precedenti, la gente era molto più affezionata ai frati, ai monaci, che ai preti sposati. E quindi i preti sposati, per tanti motivi, non godevano di grande prestigio, no? Effettivamente era più difficile, e poi avrebbero potuto o dovuto semmai segnare una differenza in positivo, non in negativo, per il fatto che non sei solo, hai una famiglia. Tenendo presente che la prima lettera di Paolo a Timoteo ha un capitolo 5 che è molto significativo, perché Paolo, o chi per lui, perché è una lettera che ha qualche anno in più del solito, cioè è scritta in un'epoca più tardi, potrebbe anche essere stata scritta da un altro, ma non conta nulla, è parola di Dio, dà i criteri per l'elezione di un vescovo, cioè chi si deve scegliere per fare il vescovo, cioè che sia un modello, no? Cosa si dice? Qual è il criterio? Che sia devoto? Che sia pio? Che sia molto molto istruito? Non si dice questo. Si dice che abbia un bel rapporto con i suoi figli, perché se non è capace a educare i suoi figli è inutile che pensi che vada a educare altri. C'è scritto questo, se andate a leggere. Che abbia una bella famiglia. Poi che goda la stima della gente, che vedendo come conduce la sua famiglia e la sua professione, la gente abbia stima. Questi sono i criteri biblici, cioè neotestamentari, della scelta dei presbiteri. E questo va tenuto presente. E quindi l'amabilità cosa significa? Significa che se tu, allo stato attuale, perché questa legge, essendo venuta nel 1200, potrebbe benissimo cadere, no? E non sarebbe per niente uno scandalo, perché per 1200 anni è così. E poi ci sono attualmente pochi dei preti cattolici di un rito particolare che sono sposati. Infatti noi sul cartellino IMSS che riceviamo, che tutti i preti ricevono, c'è scritto se hai dei figli, se hai una moglie, perché ci sono comunque dei preti cattolici che hanno un rito per cui possono sposarsi. Questo solo per dire, ecco, tuttavia la Chiesa, tenendo presente quello che è capitato per 1200 anni, c'è un po' di resistenze, perché non è andata molto bene con i preti sposati per tanti secoli, e quindi deve essere sicura che non si ripetano quegli errori. Perché perché la gente ha stimato molto di più i monaci e i frati dei preti sposati? Bisogna capirlo bene, bisogna studiarlo a fondo, no? E quindi è un problema complesso, ma noi non abbiamo più oggi problemi semplici, abbiamo tutti problemi complessi. Quindi dove non c'è uno che ha ragione e tutti gli altri hanno torto, dove ognuno c'è un pezzo di ragione, e metterli insieme tutti può anche darsi che non si riesca o che ci si impieghi tanto tempo. Comunque è meglio ascoltarci tutti piuttosto che fare scelte. Allora lì io mettevo la virtù dell'amabilità, cioè si deve poter vedere tutto il lavoro che il prete, che attualmente può solo essere maschio e può solo essere non sposato, no? E anche questo è discutibile, però è così, no? Ecco, tutto il lavoro che tu fai su di te, sulle tue pulsioni, sulla tua educazione sessuale, deve potersi vedere, e si vede nella amabilità, nel tipo di legame che instauri, che non sia possessivo, che non sia freddo, che non sia clericale. E quindi dire questo anche è un po' forte, perché vuol dire che nel clericalismo c'è una sessualità tendenzialmente repressa. Non è un giudizio sulle persone, ma è una osservazione che può venire fuori. Se tu ti attacchi così tanto a certe cose, tipo l'abito clericale, tipo quel determinata forma di abito liturgico, eccetera, eccetera, potrebbe anche essere che c'è qualche problema, perché tutte quelle cose hanno un unico obiettivo: dare gloria a Dio. Se pensi anche soltanto indirettamente che Dio dia gloria a te, è meglio che ti rivedi. E l'amabilità ha a che vedere con questo. Non sono cose tanto facili da dire e da sostenere. Infatti è una cosa che volevo chiedere, il libro non è uscito oggi, ma io non lo sapevo, lo leggevo molto volentieri, ma come l'hanno preso questo libro in confratelli? Perché noi veniamo da un periodo di sinodale delle due diocesi, Fossano Cuneo, io ho partecipato nelle varie commissioni, eccetera, e vedo questi sacerdoti, questi confratelli, i più anziani, tristi, pieni di lasveste, come si dice, sì, sì. No? Ma non datemi ancora qualcosa da fare, eccetera. I giovani li vedo un po' con l'abito talare, ben tutto a posto, eccetera, eccetera. Ecco, e questa è una domanda. L'altra domanda è che si è posto anche nel sinodo, è come fare in modo che siamo noi laici meno clericizzati. Perché il rischio è quello che copiamo. Sì, che copiamo il modo di fare e manchiamo di amabilità, cioè sobrietà e quant'altro. Io nel testo sostengo che un prete può essere clericale solo se la sua comunità è clericale. Se la sua comunità non è clericale, non ce la può fare a essere clericale. Puoi metterci tutto il potere che vuole, ma non ce la fa. Perché? Perché oggi non esiste più la concezione del potere unilaterale, il potere circolare. O lo costruisci o non ce l'hai. Sì, puoi negare i sacramenti, ma poi hai contro tutta la gente. Puoi fare delle cose assurde, ma poi te la devi vedere, no? E quindi se la gente, se il gruppo di discepoli non è clericale, il problema si risolve, altrimenti ritengo che non ci sia grande speranza, anche perché, per stare alla domanda, oggi è molto molto difficile criticare i preti, perché sono troppo pochi. Nello stile attuale, nella conduzione attuale, troppo preziosi e indispensabili, e perché fare i preti è molto difficile nella cultura di oggi, e quindi se c'è ancora qualcun altro che bastona i preti, oltre le bastonate che già ricevono, questo non è ritenuto la cosa più opportuna. Quindi se questo mio testo fosse interpretabile come un'ennesima critica ai preti, non potrebbe per nessun motivo portare del giovamento, sarebbe rifiutato. Certo, i presbiteri hanno bisogno anche di strumenti per rendersi conto di alcune cose, ma innanzitutto devono essere aiutati e compresi, aiutati vuol dire sorretti al cambiamento e compresi eventualmente nelle difficoltà dalle loro comunità. Tutto questo non è per niente facile, assolutamente non è facile. Però non riesco a vedere un'alternativa, no? Quindi bisogna diventare pazienti, no? Ecco, chiudo solo con questo, perché la parola pazienza, che nell'italiano non suona poi così bene, perché sembra c'è niente da fare, dobbiamo avere pazienza, in realtà è una parola del Nuovo Testamento preziosissima, tradotta così in italiano, ma in greco si traduce pazienza, due termini vengono tradotti tutti e due con pazienza, senza distinguere, ma nella lingua con cui Pietro e Paolo hanno scritto i loro testi, invece è chiarissima la definizione. Una prima definizione, una prima parola che è tradotta pazienza è makrothumein, che significa pensare in grande, makros, no? Quindi pazienza non vuol dire rassegnarsi, vuol dire avere una mente talmente grande che va al di là di quel limite e vede oltre. Ma c'è anche un'altra parola che è alternativa, nel senso che compaiono tutte e due, sia in Paolo che in Pietro, alternativamente, secondo il contesto, che è ipomone, che deriva da ipomenein, che significa mettersi sotto. Paziente è uno che non scappa davanti alla storia come fa invece il clericalismo, ma si mette dentro la situazione. Considera la situazione dei preti oggi difficile e per alcuni versi drammatica, non si limita ad aumentare il peso, si mette sotto. Nello stesso tempo pensa in grande, cioè non pensa clericalmente. E quindi quando si dice bisogna avere un carico di pazienza, si deve intendere in questo doppio senso, che è una via d'uscita dalla ristrettezza del clericalismo e dalla situazione molto difficile dei sacerdoti. Io volevo ancora chiedere questo: in che misura questi principi vengono assunti nei seminari, nella preparazione del clero? Questi principi non possono non essere detti, perché tutto il magistero di Papa Francesco, manca di Papa Benedetto, ma anche di Giovanni Paolo II, che comunque hanno avuto una linea coerente, e Papa Francesco non dice delle cose completamente diverse dagli altri pontefici, non dico di Pio XII, nei confronti del quale effettivamente c'è molta differenza, ma da Giovanni XXIII in avanti c'è stata una continuità, no? E quindi queste cose non possono che essere di pubblico dominio. Tuttavia, a causa del fascino del sacro, che non è per niente scomparso nonostante quello che si dice, sembra che un numero alto di giovani o meno giovani che oggi accedono ai seminari abbia una fascinazione molto specifica sul sacro, per cui o questa cosa viene presa in carico anche con gli strumenti delle scienze sociali e delle neuroscienze, e quindi si vada a capire come mai c'è questa ricerca del sacro, come mai, che è poi lo stesso problema, come mai le nuove generazioni sono così nostalgiche di cose che loro non conoscono. Io nella mia estate ragazzi con il gruppo di seconda media ho dovuto fare una giornata di riflessione, perché in seconda media ci sono alcuni ragazzi e ragazze talmente appassionati di Mussolini che ne sanno a memoria tutta la vita, tutte le date, e che questo vogliono. Loro non conoscono ovviamente nulla di cosa è stato Mussolini, né sanno distinguere, secondo me, fascismo da non fascismo, destra o sinistra, eccetera. E come mai c'è questo? Come mai gli adolescenti, anche nel mio oratorio, hanno un certo orientamento, no? Che poi corrisponde abbastanza linearmente al fatto che c'è nei giovani preti questa fascinazione per il sacro. Prima di condannarla bisogna capirla, perché se uno non capisce perché è così e la condanna e basta, peggiora la cosa, cioè rende le persone ancora più ostinate, semplicemente perché tutto questo, così cerco di dire nel mio libro, nasce da una paura, la paura del mondo di oggi troppo troppo complesso. Le nuove generazioni non educate dai loro genitori, che in gran parte provengono dal mondo assurdo del consumismo, cioè del capitalismo materialista, perché la Chiesa, non capace a inculturarsi in quei tempi, ha temuto molto di più il comunismo, che pure andava temuto, ma è stata poco profetica sul capitalismo e meno ancora sul capitalismo materialistico, che è quello ultimo del consumismo, che ha mietuto, e il quale capitalismo materialistico è quello che più ha influito sulla crisi della nostra fede, perché è il consumismo che ha allontanato dalla pratica del culto, chiaramente. Quindi noi abbiamo bisogno di capire come riuscire ad affrontare la paura del futuro e la paura della complessità. Quindi prendercela con gli adolescenti o prendercela con i giovani preti, come se fossero, avessero una mente perversa o avessero un loro difetto, per me è sbagliato. Non risolveremo nessun problema. Dobbiamo modificare profondamente gli stili educativi, bisogna partire dalle scuole dei genitori, dalle famiglie, le cose che una parrocchia può fare in una città, no? Nel testo ci sono molti esempi di queste cose, perché altrimenti, no. Quindi i preti che verranno saranno preti con ogni probabilità particolarmente affascinati da un certo modo di intendere il sacro, ma se trovano una comunità che invece non so come, perché dovrà pure formarsi, e abbiamo perso molti colpi su questo, ma ci sono dei laici che non sono clericali, aiuteranno tanto questi preti, perché comunque se si sono fatti preti è perché hanno fatto una scelta di donazione di sé, di generosità, ed è possibile che siano disposti a modificare anche la loro concezione, perché si sa tutti che, lo diceva anche Guccini nella mia giovinezza, che a 20 anni, diceva lui e non dico io, si è un po' stupidi già proprio naturalmente, che significa che si spera che quando ne avrai 30, 35 sarà un po' meglio, ma è normale, no? E quindi non bisogna allarmarsi di come uno possa pensare a 25 anni, o anche meno. Tra l'altro le nuove neuroscienze dicono che fino a 25 anni il cervello è in evoluzione, quindi può ancora sempre cambiare, quindi bisogna terminare, secondo me, con una nota di speranza che non rimanda ai laici miracolosamente, no? e non pretende dai laici di risolvere tutti i problemi, però bisogna collaborare intensamente le preti, presbiteri e laici. Grazie per la nota. Io volevo chiedere una cosa, certo. Breve, lo spazio dei diaconi permanenti su questa cosa, perché stiamo parlando di clericalismo, stiamo parlando di fatica, di fascinazione da parte dei sacerdoti che però entrano, a parte il fatto che anche adesso, se non ricordo male, se non so male, non si entra in seminario così giovane, no? Ci sono vocazioni più adulte, quindi si spera che magari i 20 anni in cui si era stupidi davvero, come dice Lucini, cioè li siamo lasciati un po' alle spalle, quindi la scelta possa essere più consapevole. No, mi chiedevo la formazione dei diaconi e quindi come questa può inserirsi in una chiesa meno clericale, perché di fatto... Esatto, non andiamo avanti. Allora, il problema è che anche lì, io sono sicuro che la formazione dei diaconi, ho partecipato anch'io a tenere degli incontri sulla sessualità, sulla politica, eccetera, sia fatta secondo i criteri che sono di oggi, che sono quelli stabiliti da tutta, dal Concilio, da tutti i documenti, che sono tutti contro il clericalismo. Ma se tu entri con una mentalità e non sei disposto a metterti seriamente in discussione, la formazione teorica da sola non basta. Lo sappiamo anche nel mondo delle imprese. Non è che se uno ha studiato bene le tecnologie all'università poi entra in fabbrica e fa tutto bene, no? Deve fare molta pratica, deve fare dei tirocini, e dopodiché la sua teoria si applicherà più o meno adeguatamente alla realtà, e quindi c'è bisogno di, no? Comunque anche sul clericalismo dei diaconi bisogna molto vegliare, quel testo lì serve sicuramente anche per il clericalismo diaconale. Grazie. Bene, Andrea, proprio per chiudere con una nota positiva e costruttiva, Andrea ci voleva leggere un testo. No, Domenico, al termine del tuo libro, bel libro, io consiglio a tutti di leggerlo, non tutto di seguito, un po' per volta, perché certi capitoli sono anche abbastanza impegnativi. Sono solo 3 capitoli, eh? Uno, la grazia del presbiterato, la bellezza del prete non clericale. Il secondo, la disgrazia del clericalismo. Terzo, cosa fare per superare il clericalismo. Quindi davvero questi 3 capitoli. Però tu concludi dicendo che abbattere il clericalismo sarà solo il popolo delle beatitudini, un popolo formato non da perfetti o da puri, ma da persone predisposte all'incontro con l'opera della grazia, che incarnando nella loro vita virtù di solidarietà, di sacrificio, di apertura, possono diventare segni evangelici nelle comunità disposte ad accoglierli. Noi proponiamo di concludere questo bellissimo incontro, lo ringraziamo davvero tanto Domenico di averci fatto questo regalo. Tra l'altro ho avuto oggi la certezza che è stato allievo di Don Giorgis. Sa benissimo chi era Don Giorgis. Propongo di leggere il testo delle Beatitudini che abbiamo ritrascritto tenendo conto di una pagina molto bella di un prete non clericale milanese che si chiama Angelo Casati, e ho chiesto a Chiara di leggerlo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli e le sue discepole. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: che bello che in un mondo che idolatra ricchezze e tornaconti personali ci siano donne e uomini che confidano in Dio e si mettono in ascolto del grido dei poveri. Dio assicura loro che sono sulla giusta strada. Che bello che in un mondo di gente che pensa per lo più ai propri comodi, ci siano donne e uomini che sanno piangere con chi nel pianto, li considerano carne della loro carne che è nella sofferenza e nell'angoscia. Troveranno in Dio la loro consolazione. Che bello che in un mondo di gente arrogante ci siano uomini e donne che reagiscono con umile mitezza ai torti, alle inimicizie, alle liti, alle critiche impietose, ai comportamenti indisponenti e discriminatori. Dio farà loro sognare cieli nuovi e terra nuova. Che bello che in un mondo di codardi e indifferenti ci siano donne e uomini che alimentano la fame e la sete di giustizia, contribuendo ad assicurarla ai deboli, agli indifesi e a coloro che contano poco o nulla sulla scena sociale. In ogni tempesta Dio sarà al loro fianco, argine alle loro paure. Che bello che in un mondo di gente rancorosa e arrabbiata ci siano donne e uomini che cercano di testimoniare il perdono e la misericordia di Dio. Non si lasciano vincere dal male, ma vincono il male con il bene. Dio avrà un occhio di compassione nei loro riguardi. Che bello che in un mondo dove spesso si premono i corrotti ci siano donne e uomini dal cuore limpido e dallo sguardo luminoso che non conoscono la doppiezza, onorano la parola data e praticano l'onestà anche nelle piccole cose. Dio rivelerà loro il suo volto. Che bello che in un mondo dove ci si illude di risolvere i problemi con la guerra e la violenza ci siano donne e uomini che costruiscono la pace, prevengono incomprensioni, disarmano il cuore, aboliscono l'idea stessa di nemico, compongono contrasti, fanno prevalere l'unità sui conflitti. Dio sarà per loro padre amorevole. Che bello che in ogni parte del mondo ci siano donne e uomini che non si rassegnano alle ingiustizie, ai soprusi e alla violazione della dignità umana. Dio assicura loro che sono sulla giusta strada. Che bello quando a tante donne e a tanti uomini anche oggi riesce di ripercorrere con coraggio, determinazione e umiltà la via del Vangelo di Gesù di Nazareth, diffidando delle scorciatoie, degli aggiustamenti o dei compromessi. Che bello se nella nostra vita avremo occhi e cuori rivolti alla beatitudine del monte. Ne sarà lietata la nostra casa e per qualche misura, per la misura che ci tocca, la nostra terra. Grazie. Possiamo concludere qui anche perché Domenico deve tornare a Foligno e noi dobbiamo tornare alle nostre case. Vi ringraziamo di aver accolto questo nostro invito. Io credo che sia stato l'incontro di oggi molto molto interessante. Avremmo potuto stare qui 2 o 3 ore. Non vi ho detto che poi Rino è dietro l'angolo, quindi il prossimo libro che scriverà allora lo inviteremo di nuovo qui a San Biagio.